Eseguita la preghiera di Ibrahim, il Musalli esegue due taslim, uno a destra e uno a sinistra, cioè volgendosi a destra dice Assalamu alaikum e così pure volgendosi a sinistra. Con il secondo taslim si conclude il rito di adorazione dell'alba. Nel rito di adorazione del Maghrib, le rak'ah sono tre. Il Musalli, quando ha recitato il tashahhud, torna in posizione di qira'ah dicendo Allahu Akbar ed esegue la terza rak'ah come la seconda del rito dell'alba fino ai due taslim. Nel rito del mezzogiorno, del pomeriggio e della notte, le rak'ah sono quattro. Il Musalli, dopo il tashahhud, torna in posizione di qira'ah dicendo Allahu Akbar ed esegue la terza rak'ah. Dopo la seconda prosternazione della terza rak'ah, torna in posizione di qira'ah ed esegue la quarta rak'ah come la seconda del rito dell'alba fino ai due taslim.